24 mattino. Giovanni, io sono in ansia come tutti gli italiani, perché alla fine vengono Di Maio e Renzi o vengono i loro capi Grillo e Berlusconi. Andiamo bene. No, scherzo. Lo so che Di Maio non viene, ma tu lo sai perché non viene, il vero motivo? Perché l'ha preso la RAI al posto di Insinna per fare i pacchi. Sì, lui è... No, ma dico, ma lui è, voglio dire, ma è così bravo... È così bravo a tirare i pacchi, ma perché non va a lavorare ad Amazon? Scusa. Però io ho saputo che questo forfè di Di Maio gli ha fatto prendere un sacco di voti tra gli animalisti, perché gli animalisti tutelano molto il coniglio. Due battute straordinarie, una contro Di Maio, gli ambientalisti tutelano il coniglio e quindi vogliono bene a lui, e poi quella su Renzi, se è così bravo a tirare i pacchi perché non va a lavorare ad Amazon. Allora, giornali pieni ancora di politica, con alcuni lampi di cronaca importante sull'economia, ne parleremo fra breve, perché c'è di nuovo una cosa europea che riguarda tutti noi. Sulle sofferenze, l'Italia attacca la linea e la vigilanza della Banca Centrale Europea, che però ribadisce, si fa come diciamo noi, e il Parlamento Europeo le dà ragione. Attenzione, attenzione. Poi la cronaca, con ancora nuove accuse a Kevin Spacey, vi rendete conto? E poi tante notizie che riguardano i baby boss che chattavano sui social, Ale presi per fortuna. E poi ovviamente le pensioni, su cui alla fine sembra si sia delimitato, il governo ha detto quante ne vuole salvare con i lavori usuranti, e poi ovviamente la politica con Renzi in primo piano per le sue esternazioni da Floris. Allora iniziamo la rassegna dei titoli, parto subito dal Sole oggi perché... È importante sulle sofferenze l'Italia attacca, diciamo Draghi, serve uno sforzo congiunto, e quindi pagina 3, la leggeremo fra poco, c'è qualcosa che riguarderà le nostre banche, forse le mette a rischio di nuovo. Libero, nel PD goffi tentativi per liberarsene, e poi il protagonista, per stendere Renzi bisogna sparargli. Non è divertentissimo quando si parla di sparare a qualcuno. Nella politica ci sono precedenti. Il Tempo, antifascismo l'aldilà, condannati per una tomba, sindaco e assessore di Affile nei guai per il mausoleo di Graziani, e i PM ricorrono in appello, anziché 8 mesi volevano 2 anni di galera. Stiamo parlando di Graziani, il generale delle guerre d'Africa e dei gas. Il giornale, Renzi non sta sereno, regolamento di conti a sinistra, Matteo si autoassolve su tutto, giudicatemi alle politiche, ma il PD ha un piano B e poi vi diremo quale, anzi ve lo dico subito, Beltroni candidato. Il fantasma dei barbari di Alessandro Gnocchi e il fondo di oggi del giornale. Avvenire, l'Unione Europea evade ancora, divisi 28 paesi, frena la lotta ai paradisi fiscali e slitta l'IVA nazionale sul commercio elettronico. Avvenire sta facendo una campagna su questa vicenda dei paradisi fiscali. Avanti Zaza, Rebus Insigne, la Gazzetta dello Sport ci parla delle percentuali di candidabilità dei candidati alla nazionale. Il Fatto apre su Trump, il cane di pezza che sfregia l'America, è un fondo d'autore di Joe Lansdale, lo scrittore ovviamente, ma poi c'è il taglio che è quasi il titolo di apertura, Musumeci e Micari, con loro una lista che vale circa l'8%, sono gli impresentabili, 170.000 voti secondo il Fatto. La Stampa, Gentiloni, non tradirò Renzi. Il segretario, riconosco i miei errori, non pongo veti per ricostruire il centro-sinistra. Lega e Forza Italia si apre lo scontro su poltrone e collegi, no azzurro al candidato della Meloni alle regionali del Lazio. E qui c'è un nome che salta fuori, lo abbiamo detto, pensate, quello di Nicola Porro, ma l'altro nome potrebbe essere i Liguori, se lo doveste scegliere Berlusconi, Paolo Liguori, che abbiamo avuto ospite anche noi recentemente. Tolgono il voto a noi per dare la cittadinanza agli immigrati, elezioni forse a maggio, è il titolo della Verità. E poi c'è una fogliettone, una foto su due, anzi uno sulla donna di Tugliani che faceva la spola fra Italia e Dubai, una dipendente dell'ATAC, e poi l'eroe del renzismo Farinetti, la Disneyland del cibo di Oscar Farinetti viene presentata questa settimana, secondo la Verità vicino a un inceneritore è stata costruita. Il Messaggero, pensioni, gli esclusi da quota 67, proposta del governo ai sindacati per 15 categorie, non scatta l'aumento dell'età, le novità per siderurgici, marittimi, braccianti, pescatori, la protesta dei medici. Questi sono coloro che verrebbero esentati in questo piano del governo di cui vi parlo fra poco. Il Foglio. Allora, come prendersi il solito soppalco, che sapete qui non è un'apertura vera e propria, ma è un editoriale. Come prendersi cura del proprio cervello, Alfonso Berardinelli, senza farsi turlupinare dagli inserti culturali tra neurosaggezze e populismi vari. Ma l'apertura, la spalla, è un'agenda contro il partito del malumore, il processo a Renzi, scrive Claudio Cerada, il direttore, ma non solo, una campagna elettorale non fuori dal mondo sarà possibile solo se la politica rottamerà con la competenza la bolla del paese percepito. Cos'è la nuova battaglia di civiltà contro l'Italia del broncio universale? È scritto un po' in fogliese, ma l'avete capito. Chi? Ignazio, stai attento a Cecilia. Ale, Francesco Moser mette in guardia il figlio innamorato al grande fratello VIP. Parla Francesco Moser di Cecilia Rodriguez. La Repubblica. Renzi ignora le critiche e attacca. Il segretario pensa a un partito personalizzato stile Macron, e questa è un'altra novità che ha solo Repubblica. Non mollo, punto al 40%. I ministri democratici non lasceremo che renda il PD una bad company. Sicilia prove di nord, la mappa di diamanti, eh? Sempre interessanti queste spigolature. Renzi attacca intese lontane, il titolo del Corriere della Sera. Futuro capo del governo anche Gentiloni, è lì per quello, sapete che quello sono i brani che vi abbiamo fatto sentire. Tre lezioni siciliane ai partiti di Sabino Cassese e il fondo del Corriere della Sera. Però c'è anche il Papa. I migranti, accettare le leggi di chi accoglie, è proprio un brano titolato, firmato Francesco, sul Corriere della Sera di spalla oggi, mentre il caffè di Gramellini ve lo leggo dopo perché è divertente. 7, 27 minuti, 50 secondi, ci fermiamo per il meteo e poi torniamo nel racconto delle notizie. Io gli voglio bene, ma ambulanza qui. Mattino. 7, 33 minuti, 46 secondi, Luca Telese, vi voglio dare subito un lampo, l'aggiornamento sul campo di battaglia di Weinstein e dintorni. L'inchiesta del New Yorker dice, il figlio di Mia Farrow, Woody Allen, che continua a menare sul produttore, ci dice che Weinstein ingaggiò 007 per fermare le accuse contro di lui. Poi il Sun dice che Kevin Spacey spese una cifra spropositata, $60,000 per una festa a luci rosse sulla costiera amalfitana con 11 ospiti maschi a cui fu chiesto di non raccontare nulla. Ma la domanda è: qui dove sarebbe la molestia? Però la notiziona è Monica Bellucci, che parla al Corriere della Sera, parla delle molestie, difende Tornatore dalle accuse che lo hanno colpito. E sentite due lampi. Monica ha riacquistato il buon umore, è l'intervista di Valerio Cappelli sul Corriere. L'aveva perso dopo e le abbiamo chiesto se lei sia stata mai molestata. Che domande mi fai? Vuoi sapere pure di che colore porto le mutandine, Valerio? Monica, è una domanda legittima, dice il giornalista del Corriere della Sera. Belli questi corpo a corpo. Ok, allora ti dico che non esiste una donna in qualsiasi ambiente che non abbia conosciuto un gesto inopportuno di un uomo. Dobbiamo imparare a difendersi. Io ho lavorato come modella da giovanissima, ora le donne cominciano a parlare e sono felice che le mie due figlie siano nate in un periodo come questo. Però con Tornatore ho girato un film 5 mesi, con Tornatore ho fatto spot e poi mi ha ripreso per un piccolo ruolo in Baria, con Tornatore ho rapporti di amicizia da 20 anni, continuo a sentirlo ancora oggi. Ebbene, io credo proprio che non c'entri nulla. Questo è ciò che dice Monica Bellucci. Avanze e violenze sono due cose molto diverse. Va bene, serviva questa finestra perché è un grande tormentone. Oggi rubo dal direttore di Repubblica, Mario Calabresi, che lo mette a chiusa del suo editoriale, che a sua volta lo prende dalla pagina culturale Robinson di Repubblica, una bella citazione di William Yeats, che secondo me potrebbe essere il titolo di oggi: i migliori perdono ogni convinzione mentre i peggiori sono pieni di appassionata intensità. Allora, a che cosa si riferisce Calabresi? Ce l'ha con il centro-sinistra, ce l'ha con Renzi. Il titolo è Il falò delle verità e il suo editoriale è Il dibattito su chi debba essere il candidato premier dei vari schieramenti per le prossime elezioni non solo è fasullo ma anche demenziale, scrive Calabresi, Repubblica, pagina 1. Prima di tutto perché inganna i cittadini. Il sistema elettorale con cui andremo al voto è per 2/3 proporzionale e non prevede nessuna indicazione del Presidente del Consiglio. Inoltre, il sistema tripolare in cui ci troviamo non permetterà ad alcun partito di arrivare alla maggioranza da solo. Quindi, balle. Però, giro a pagina 29, dove prosegue questo editoriale, e leggo le tre stoccate forti del principale quotidiano vicino al PD su Renzi. Aveva dato grande speranza all'Italia, ma poi ha perso il contatto con il paese, non è riuscito a cogliere il malessere, le paure che non davano certo inseguite, ma invece comprese e affrontate. La chiave non era andare da Obama alla Casa Bianca, farsi vedere innovatore accanto a Jeff Bezos, parlare delle eccellenze, così come oggi non potrà essere cercare una sponda in Macron, ma mostrare di capire i bisogni e la sofferenza. Questo è ciò che deve fare, quello che è mancato è l'ascolto. Ancora, svegliarsi una mattina e cannoneggiare la Banca d'Italia accodandosi ai professionisti della demolizione è una scorciatoia pericolosa. Se sei forza di governo e credi che ci siano stati errori e omissioni, dice Calabresi su Repubblica, pagina 29, allora crei le condizioni per il cambio del governatore, non permetti la riconferma tenendoti le mani libere per gridare allo scandalo. E ancora Calabresi attacca la proposta di Renzi prossima in discussione, quella della legge sui vitalizi. Con i vitalizi una parte del PD non accetta di modificarli, ma Renzi vuole cavalcare il tema per non lasciare carta bianca a Grillo. Anche qui le strade sarebbero due: o convinci il tuo partito della bontà della cosa o ne capisci le ragioni. Bombardare il quartier generale è inutile. Dicevo, notizie su Repubblica, c'è questa ipotesi, l'ultima tentazione di Matteo, il pezzo di Ciriaco, cambio tutto come Macron, una svolta da suggellare con liste elettorali radicalmente diverse, una roadmap in 3 tappe, un viaggio simbolo da Emmanuel Macron, un appello agli italiani per stravolgere con nuove parole d'ordine il volto del PD, una Leopolda hard, una rivoluzione che porterebbe anche al cambio del simbolo. E allora a specchio Goffredo De Marchis, la paura e anche i timori di Orlando e Franceschini, due ministri Dem. Mi aspettavo aiuto dai padri nobili, dice Franceschini, che invece riceve silenzio da Prodi, Veltroni e Parisi. L'ordine del giorno della direzione UD è stata la goccia finale. 1. Avvio della campagna elettorale, Goffredo De Marchis, Repubblica, pagina 3. 2. Vitalizi. E la Sicilia? E il pericolo concreto di arrivare a terza elezioni? Semmai, il richiamo alla pensione dei parlamentari, scrive De Marchis, assomiglia piuttosto a una sfida da consumare dentro il partito. E anche un altro sospetto ovviamente turba le opposizioni del PD. Lui porta in Parlamento una pattuglia ai fedelissimi, dice De Marchis, e ci riprova al prossimo giro, dicono in molti. La voce gira, si alimenta anche un po' da sola. Se è così, non potremo stare a guardare. Significherebbe la nostra morte, non solo, ma la morte dell'intero progetto del PD. Avete capito come sono turbate le acque dentro questo partito? Rischio scissione, dice addirittura Repubblica, che racconta anche pagina 3 di come la sinistra si stia unendo intorno a Grasso. E poi l'altra notizia, l'ipotesi alternativa che potrebbe mettere pace, ce la racconta il giornale Laura Cesaretti, pagina 3, quella di una candidatura di Veltroni. Gori, su Repubblica, pagina 4, il sindaco di Bergamo, possibile candidato del Partito Democratico in Lombardia, senza alleanza perderemo ancora. Ma chi è l'uomo che ha preso più voti in Sicilia nel Partito Democratico? Vade da solo, pensate, le sue preferenze come metà di tutti i voti presi dal PD. Il vasa-vasa del PD Siculo con il record di voti, Catanesi in fila per l'omaggio ai 32.000, alle 32.000 preferenze di un ex dell'UDC, Luca San Martino, oggi traslocato sotto le insegne di Renzi. E vai, è un dentista, hai capito? È un dentista molto amato. Sul giornale a pagina 6, Alfano, dopo la sconfitta, non ha raggiunto il quorum, lui minimizza, la base è in rivolta, il 3% nazionale si potrebbe superare, però il titolo è pronti a far saltare lo Ius Soli. Sarebbe questa la prima conseguenza del voto siciliano, il fatto che a P si sfila ancora una maggioranza. I centristi vogliono sabotare la legge per smarcarsi dal Partito Democratico. L'ala critica a destra, andiamo subito a destra oppure ce ne andiamo, questo l'ultimatum posto ad Angelino. Allora, che succede a Ostia, simbolo del nuovo laboratorio della politica, dove c'è un ballottaggio fra una candidata della Meloni e un candidato dei 5 Stelle, quindi un ballottaggio interessantissimo, è un po' il remake di quello che accadde nella capitale. E la Meloni dice, il Tempo, pagina 5, quegli elettori, il 10% di Casa Pound, interessano a Fratelli d'Italia, ma risponde il vicepresidente di Casa Pound, risponde idealmente, intervistato da Antonio Rapisarda, il Tempo, pagina 4, nessun accordo sul Lido, ora entreremo in Parlamento superando lo sbarramento del 3%. Allora, c'è un altro scenario interessante, Montesano sul Libero, pagina 2, preoccupa il PD il rischio di perdere altre tre regioni nelle prossime votazioni, e sarebbero il Lazio, secondo il giornalista di Libero, il Friuli e il Molise. Il giornale a pagina 7, Patricia Tagliaferri, racconta che il Movimento 5 Stelle pensa a un voto utile, cioè chiedere i voti della sinistra per battere la destra. Pensate. Repubblica, pagina 11, questa è l'ultima perla, è l'idea che Nicola Porro possa essere il candidato. Il mio ex sudale mi fa ridere perché so quanto soffre di fronte a questa proposta, ma Berlusconi lo vuole candidato. Lo vuole candidato, ecco la scelta di Berlusconi, Porro alle regionali, Giovanna Vitale, lo vuole candidato del centrodestra. L'ex premier pensa al modello Musumeci, il giornalista però risponde no, grazie, e un altro nome che si fa è quello di Paolo Liguori. Allora Repubblica, pagina 11, stiamo parlando della cronaca di Roma perché ancora non è affiorata sulle pagine nazionali questa notizia. Ci fermiamo ancora per le strade. Ricordate i vostri messaggi per la navigazione, 349-238-6666. Preparatevi per le telefonate perché dopo l'ultimo blocco di rassegna arriva Oscar, il momento dei cani e dei gatti. Qualcuno mi dice la battuta sui pacchi era su Di Maio. Ecco, allora ve la rimandiamo, per onore a caso era su Di Maio, non su Renzi, ma guardate, va bene per metà dei politici italiani. Strade. Io sono contro la specializzazione, preferisco saper fare 10 cose male piuttosto che una bene. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta "24 mattino". Giovanni, io Sono in ansia come tutti gli italiani, perché alla fine vengono Di Maio e Renzi o vengono i loro capi Grillo e Berlusconi. Eh? Andiamo bene. No, scherzo, dai, ma dai, scusa. Lo so che Di Maio non viene, ma tu lo sai perché non viene, il vero motivo? Perché l'ha preso la RAI al posto di Insinna per fare i pacchi. Sofferenze, perché io mi rifiuto di dire NPL, che non lo capisce nessuno ad Abbiate Grasso e neanche alla Dispoli. Sulle sofferenze l'Italia attacca la linea della vigilanza della Banca Centrale, e è il pezzo di praticamente di apertura del Sole 24 Ore. E lo firma Beda Romano, e da Bruxelles il nostro corrispondente, e continua a creare tensioni la decisione della Banca Centrale Europea di rivedere in senso restrittivo le regole di vigilanza bancaria, chiedendo nuovi accantonamenti per far fronte a crediti in sofferenza. Sulla questione il contrasto è istituzionale e politico, scrive Romano sul Sole 24 Ore. Si moltiplicano le critiche dall'Italia che teme ripercussioni economiche. Proprio oggi l'ufficio legale del Parlamento Europeo dovrebbe pubblicare un parere sulla legalità dell'iniziativa presa in ottobre dall'Istituto Monetario. C'è una mappa che spiega molto bene come sono le sofferenze in Europa. È una mappa cromatica, e il grado più intenso è in Francia, nel Lussemburgo, ma anche l'Italia ha una certa intensità di verde che ora non posso descrivervi nel dettaglio. Se volete andate a vedere. E invece Draghi, la risposta di Francoforte: Draghi difende la linea ma chiede uno sforzo congiunto Alessandro Merli. Questo è lo scenario, ed è uno scenario molto complicato, perché se così dovesse essere le banche italiane sarebbero costrette a grandi accantonamenti, a un salasso, diciamo così, che potrebbe mettere a rischio gli equilibri e i bilanci. E ancora dal Sole: pensioni, 15 lavori gravosi fuori dall'aumento a 67 anni. Banca Italia anche qui si impone contro l'idea di allargare i cordoni, no a retromarce. Siamo sul Sole a pagina 5. Stop all'aumento dell'età per 15 categorie di lavori gravosi. Alt selettivo all'aumento a 67 anni. Davide Colombo e Marco Rogari, la commissione ad hoc per le stime della speranza di vita, quindi quel criterio che fa salire l'età pensionabile, dovrà essere comprovato, ma il problema grande sono queste categorie che verranno dispensate. Alcuni lavoratori operai e siderurgici, altri individuati, ma ovviamente il dibattito è ancora grosso, e secondo me, voglio dirvelo, non ci sarà la parola fine finché questa legge non va in porto. L'elenco delle 15 categorie di gravosi, raccontano i due giornalisti del Sole, comprende le 11 già previste per l'ape social, dagli operai di industria estrattiva alle maestre fino ai macchinisti ferroviari e alle maestre d'asilo, a cui se ne aggiungono altre 4 agricoli, siderurgici, marittimi e pescatori. Però stiamo parlando di poche decine di migliaia di persone. So che Oscar si imbufalirà, però sono poche decine di migliaia di persone. Non può venire giù il mondo per una cosa così semplice. E la verità, Carlo Tarallo, c'è un pezzo di taglio molto interessante che riguarda il tema della commissione di inchiesta. Casini: devono restare segreti i nomi dei debitori insolventi. Risparmiatori presi in giro ancora una volta, dice La Verità, ma il problema è che il presidente della commissione d'inchiesta ha posto il segreto e ha vietato le domande un po' su tutti i giornali, cioè su diversi giornali con titoli diversi, ma questo mi sembra il nodo più importante, durante l'audizione di Federico Viola, ex amministratore delegato di MPS. Bene, ce ne andiamo alla mitragliata. Allora, condannati per una tomba. Sarà così. Alessandro Meluzzi sul Tempo è critico, ma è una sentenza che farà discutere, perché avevano costruito un mausoleo a un criminale di guerra, come così è ricordato il maresciallo Graziani per i gas usati nelle guerre d'Africa, e i PM ricorrono in appello perché hanno avuto 8 mesi, il sindaco e gli assessori, loro volevano 2 anni di galera. Avvenire dedica grande attenzione, ma anche la stampa, al tema dei baby boss. Ve l'ho detto, è una scoperta sconvolgente, però ci deve far preoccupare. L'andrangheta si vestiva di social. I giovani boss in rete si chiamavano Cumps, arrestati in 50, propagandavano il codice, l'ideologia, i messaggi di servizio della mafia su Facebook. Baby boss di Facebook, Twitter e dei social network. Allora, Libero, pagina 9, c'è la foto di un assessore che tutti conoscono a Roma, quel Gianni Lemmetti che amava le t-shirt, è stato bloccato dal Senato e mandato fuori l'assessore al bilancio del Comune di Roma perché motivi politici? No, era senza giacca e cravatta e nessuno gli aveva detto che al Senato è obbligatorio. Ale! Questa è veramente la perla della giornata. Chiuso Palazzo Chigi. Ma come? Per colpo di Stato? No. Per problemi di civili, di sicurezza? No, no. Per un assalto dei No Global? No. Per un'invasione. Voi direte, ma di chi? Degli scarafaggi e degli scorpioni. Ma serve uno scrittore, serve Pasolini, serve Calvino. Scorpioni e scarafaggi conquistano Palazzo Chigi e racconta Franco Bechis, uno scoop devo dire, la ditta Romeo Gestioni viene chiamata a ripulirli con un piano di emergenza. Sarà un'impresa epica e scrive Bechis sul Libero, l'infestazione è drammatica e sarà utilizzato un micidiale gel al modico prezzo di 90,41 euro comprensivi di IVA al chilo. Sono stati pagati questi soldi più l'intervento degli operai di quinto livello per massacrare scorpioni e scarafaggi. La democrazia è in pericolo, non per la politica ma per i parassiti. Una bella morale, cani e gatti, le vostre telefonate 800 24 00 24, i vostri sms 349 238 6666 e ci sentiamo subito fra poco con